475. Tonno sott'olio in salsa alla bolognese. Prendete un pezzo tutto unito di tonno sott'olio dal peso di grammi 150. Mettetelo al fuoco con acqua bollente e fatelo bollire ad agio per mezz'ora, cambiandogli l'acqua ogni 10 minuti, cioè 3 volte. Frattanto fate un battuto tritato fine con mezza cipollina di quelle indicate al numero 409, un quarto di spicchio d'aglio, 2 costole di sedano bianco lunghe un palmo ciascuna, un bel pezzo di carota e un pugno abbondante di prezzemolo. Ponetelo al fuoco con 3 cucchiaiate d'olio e grammi 15 di burro e quando avrà preso colore fermatelo con 2 dita di bicchiere d'acqua e lasciatelo bollire un poco. Il tonno, d'acio che sia, tagliatelo a fette più sottili che potete e preso un tegame distendetelo nel medesimo a strati intercalandolo con la salsa e grammi 15 di burro sparso a pezzettini. Fategli alzare il bollore al fuoco per liquefare il burro. Strizzategli sopra mezzo limone e servitelo caldo. Potrà bastare per 4 persone come principio a una colazione di magro o come tramesso a un desinare di famiglia e non è piatto da disprezzarsi perché non aggrava neanche molto lo stomaco.